Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, il governo Rattazzi e un ingegnere alle finanze. La tensione sembra che si stia sciogliendo. Il sovrano, riferiscono indiscrezioni di palazzo, non sopportava più il toscano Ricasoli e l'arrivo alla guida dell'esecutivo dell'ex presidente della Camera, Urbano Rattazzi, piemontese come lui, lo ha tranquillizzato. Rattazzi ha assunto anche la guida del Ministero dell'Interno e sarà forse la sua croce. A Torino c'è un certo grado di preoccupazione per il ritorno sulla scena e le attività di Giuseppe Garibaldi. Il 22 marzo il generale è arrivato a Milano festeggiato da una folla immensa. 20.000 persone si dice siano accorse ai giardini pubblici per celebrarlo e commovente è stato l'incontro con Alessandro Manzoni. Lui non ha perso tempo e ha inaugurato subito quella che è la sua nuova passione, il tiro a segno, centrando un bersaglio con un colpo da 100 metri. Passione autorizzata da un regio decreto di novembre e tutta politica. Il generale dice spesso che serve esercitarsi perché tra poco si torna in armi. Obiettivo Roma quasi certamente, che è obiettivo anche di Rattazzi, il quale però sembra volerlo raggiungere con altri mezzi. E se da ministro dell'Interno gli tocca gestire anche il problema del brigantaggio, dal lato dell'economia ha deciso di delegare. Si è affidato ad un deputato semi sconosciuto, un ingegnere, esperto di mineralogia, appassionato alpinista di nome Quintino Sella. A 35 anni sembra avere le idee ben chiare su come riassestare un bilancio disastrato. Bisogna spingere dal lato delle entrate. Sta facendo elaborare un progetto di tassazione sulla ricchezza mobile. La vera innovazione, dicono i tecnici del Ministero, è che non ci si baserà sulla presunzione di guadagno, ma su un documento chiamato dichiarazione dei redditi che i contribuenti scriveranno di loro pugno. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.